Ovviamente io pernotto da mia suocera e rientro il 25, non sto commettendo nessuna infrazione, perché io il comune lo sto cambiando solo il 25 per rientrare alla mia dimora. Ma qualcuno sa dire se uno può andare a trovare il parente che è da solo? Perché io ho un papà di 86 anni che è da solo e quindi non me la sento comunque, anche se nel comune adiacente, non me la sento comunque di lasciarlo da solo. Questo Natale possiamo fare tutti uno sforzo, che non serve tutto sto casino, tutta sta confusione, sto parlare continuo tipico italiano. Questa è la dimostrazione che non siamo disciplinati a niente, no? Per una volta non vedi un giorno i tuoi dopo una settimana di rincontro. Dai su, lasciamo andare. Eh beh, non male l'ultimo, non male decisamente. Un po' ha ragione nel dire che forse tutte le domande che ci facciamo sono la dimostrazione che noi abbiamo capito proprio perfettamente come stanno andando le cose. Però la risposta all'ascoltatrice l'abbiamo già data prima, Sì, lo può fare, cioè viene considerato stato di necessità un padre anziano da solo, sì, può andare, mi raccomando, usi tutte le precauzioni, cioè si tenga la mascherina, tenga la distanza il più possibile, È semplicemente questo, stare un po' più attenti, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete, come sempre. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:21 minuti di venerdì 4 dicembre. Al microfono sempre Simone Spezia. Diamo come sempre un'occhiata innanzitutto alle aperture dei giornali, a cosa si dedicano. Beh, come potrete immaginare, molti a quello di cui abbiamo parlato fino adesso e di cui stiamo parlando finora, ossia come funzioneranno queste regole. 1000 morti in un giorno, serve un Natale blindato, è il titolo della Repubblica, dove il serve un Natale blindato è tra virgolette. Sono le parole del governo. La Verità ci parla della rivolta dei prigionieri di Conte, ristoratori, operatori turistici e regioni furibondi contro il DPCM che ammazza le feste. Il Fatto Quotidiano, dall'altra parte se volete, 993 morti in 24 ore, ma regioni e Partito Democratico rompono con Conte che dice dobbiamo evitare la terza ondata. Il Messaggero ci dà conto dei possibili furbetti, come vogliamo chiamarli. La fuga dai divieti di Natale. Fino al 20 dicembre la corsa verso le seconde case, autocertificazione per visitare gli anziani e ristoranti appunto sempre aperti a pranzo, e Conte fa sapere cenone solo con i conviventi. La Stampa intervista la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Troppi morti, fermiamo la terza ondata. Il Corriere della Sera, un vademecum praticamente, un Natale in casa, tutte le regole. Il Manifesto ci gioca su, indovina chi non viene a cena. Il Giornale anche ci gioca su, Natale senza i tuoi. Usa un gioco di parole più o meno. Anche il Quotidiano Nazionale, così ci hanno sistemati per le feste. Natale, doveri solidali è il titolo di Avvenire. Libero, il Covid dà alla testa, le conseguenze gravi del virus, vuoti di memoria, mente annebbiata, difficoltà di concentrazione, smarrimento, incapacità a svolgere azioni elementari. Il Sole 24 Ore ci riporta sul terreno economico e di quello di fronte a cui ci troveremo a partire dal 2021, meno ripresa, più disoccupati. Il quadro Istat con la crescita corretta al ribasso per il prossimo anno, il rimbalzo si fermerà a un più 4%. Questo è il quadro dei titoli che trovate sui quotidiani. Iniziamo come sempre da qualcosa di diverso. E dato una giornata così nella quale siamo tutti preoccupati di come andrà il Natale, cosa faremo, eccetera, eccetera, ci prepariamo a una festa un po' triste. Fatemi iniziare da due storie belle per una volta, due storie belle. E la prima è del professor Ranjit Singh Disale. Chi è? È l'insegnante dell'anno, lo avrete sentito anche in GR24, è stato premiato con questo premio che appunto viene assegnato ogni anno alla persona, all'insegnante che più si è distinto. In Lizza c'era anche un italiano, ma ha vinto questo professore indiano. E ne scrive nel suo caffè Massimo Gramellini questa mattina. Quando il professor Ranjit Singh Disale chiese dov'era la scuola femminile del villaggio indiano al quale era stato destinato, gli anziani gli indicarono una stamberga attaccata ad una stalla. Le allieve neanche c'erano. Una su 10 si recava saltuariamente a lezione, le altre lavoravano duro nei campi e si preparavano a contrarre matrimoni imberbi. Nessuna parlava la lingua ufficiale. Così il maestro imparò il loro dialetto e tradusse i libri di testo. Poi, con l'aiuto delle nuove tecnologie, in un mix profetico di didattica in presenza e a distanza, le appassionò all'arte e alla poesia, senza trascurare la matematica. Adesso, in quel villaggio, le bambine non si sposano più, vanno tutte a scuola e la prima alunna, diventata ormai grande, si è appena laureata. Era quasi scontato che un maestro del genere ottenesse il milione di dollari che ogni anno si assegna al vincitore del Global Teacher Prize, ed era quasi scontato che, ricevendo il premio, parlasse della necessità di condividere i saperi e gli sforzi. Mentre i medici salvano il mondo, agli insegnanti tocca salvare il futuro. Ma a quel punto il professor Disale ha guardato agli altri 9 finalisti, tra i quali un italiano, e ha aggiunto: cominciamo col condividere il premio, lascio a voi la metà della cifra. E questo, credetemi, non era scontato per niente. Infatti, in tante edizioni non era successo mai. Nulla è più potente della parola quando è seguita da un gesto che non la smentisce, scrive Gramellini. E l'altra bella storia è il campione onesto nell'era dei furbetti. Per chi è appassionato di quiz televisivi, parliamo dell'Eredità, il talk show a premi di Flavio Insinna, che ogni sera lancia il TG1 delle 20 su Rai 1. Ne scrive Felice Manti sul Giornale, ne scrivono anche altri. Massimo, chi era costui? Massimo Cannoletta, anzi era il campione dell'Eredità. Che cosa ha fatto? Ha già vinto 202.000 euro, stranamente non ha praticamente, e l'altra sera stranamente non ha praticamente toccato palla, perché il suo avversario di turno aveva indovinato tutte le domande, proprio come ci aveva abituato lui, e più di una volta, ma non quella finale. Massimo poteva approfittarne, non ha infierito, ha detto: la risposta la so, sbaglio di proposito, perché stasera è lui che merita di andare alla ghigliottina, la parte finale del premio. Non è un arrivederci ma un ciao, come nei videogiochi si ottiene dopo 7 ghigliottine una vita con la possibilità di ritornare, è stata la promessa di Insinna, speriamo. Massimo Cannoletta, che a 46 anni di mestiere fa il divulgatore scientifico, non ha la spocchia del so tutto io, ma è colto e umile, non ha il physique du rôle del campione, nell'era dei tronisti e dei grandi fratelli sembra quasi una bestemmia. È cresciuto a sud, pane e anni 80, ha visto crollare il muro di Berlino e quello di Tangentopoli con gli occhi di un adolescente, giocava col Commodore 64, una cultura rotonda, spazia dalla storia alle curiosità, come un marziano arrivato dagli anni 70, direttamente dagli studi del Rischiatutto, di Mike Bongiorno. Così Felice Manti sul Giornale e ci racconta questa storia. E apriamo appunto con queste due belle storie, per poi spostarci a Roma. E qua, son dolori dalle parti dei vigili urbani, son dolori dalle parti dell'AMA, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, la municipalizzata ambientale. Son dolori da parte dei vigili urbani, perché che cosa è successo nei giorni scorsi? Che si sta svolgendo una guerra sotterranea, e che a questo punto sotterranea non è più, all'interno tra i pizzardoni, così vengono chiamati a Roma, una guerra interna della quale la vicenda della quale un po' tutti avrete letto, ossia dei due vigili urbani pescati a fare sesso davanti a un campo rom e poi registrati, è stata un pezzo a quanto pare. È successo che nei giorni scorsi il comandante dei vigili di Roma si è dimesso, che la Virginia Raggi ha scelto un generale dell'esercito a guidarli, si tratta di Paolo Gerometta, ed è scattata la rivolta. I vigili minacciano per le prossime 2 settimane di non fare più multe, con grande gioia dei romani naturalmente, e però, come potrete capire, il periodo è piuttosto delicato. Lasciamo a casa orologio e penna, sono gli strumenti insieme al fischietto del nostro mestiere. Senza non possiamo notificare atti e multe, annuncia Mauro Cordova, presidente dell'ARVU, l'associazione romana vigili urbani che conta oltre 2.000 iscritti. Negli anni 70 Cordova era un agente in servizio del centro storico, quando alla guida del comando generale c'era Francesco Andreotti, fratello del senatore Giulio. Poi ha attraversato mezzo secolo di storia dell'amministrazione capitolina come funzionario e quindi come presidente dell'ARVU. E ora nuovo braccio di ferro alla testa dell'ennesimo braccio di ferro tra Pizzardoni e amministrazione, racconta a pagina 13 del Messaggero Flaminia Savelli. E attenzione, perché qua c'è un altro elemento, c'è un altro elemento che è rilevante. Nei giorni scorsi un servizio di Report inanellava una serie di inchieste sul corpo della polizia locale romana, dalle autorizzazioni per i set cinematografici alle ombre sui gruppi che coordinano i controlli sui negozi e ristoranti del centro storico. Indagini archiviate ma che hanno spinto il Campidoglio a procedere con quello che si fa normalmente, lo diciamo, con le rotazioni dei vigili destinati agli incarichi più delicati, e cioè commercio e ambulanti, cioè quelli a rischio, con tutto il rispetto, perché probabilmente sono la gran parte, la grandissima maggioranza sono onesti, però ovviamente qual è il punto qua? È che sono quelli un po' più a rischio corruzione, un po' più a rischio mazzetta, quelli che lavorano sugli ambulanti e sui divieti su commercio e ambulanti. La risposta al pugno duro della sindaca Raggi, che ha incassato anche le dimissioni dell'ormai ex comandante, sta dunque arrivando. E quindi, come capite, la lotta è diversa e più profonda. E poi, visto che siamo su Roma, andiamo a Lama, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti. Come ha lavorato Lama? Come sono i bilanci dell'Lama? Beh, ormai lo sappiamo tutti, c'è un discreto buco di bilancio, si aspetta che ancora venga approvato il bilancio e ci sia il via libera dell'amministrazione comunale. Ma a Natale per 5 dirigenti arrivano le promozioni. Ovvio, no? Cosa voleste che succedesse? Cosa volevate che succedesse? Sotto l'albero di Natale, a Lama, per 5 super manager non ci saranno soltanto spumante e panettone, per loro è previsto anche un aumento di un terzo dello stipendio e la nomina direttore dirigente di prima fascia. Il tutto mentre l'azienda aspetta ancora il via libera agli ultimi bilanci dall'azionista, il comune, e soprattutto al piano di risanamento della municipalizzata, dove c'è una richiesta di ricapitalizzazione al Campidoglio di 90 milioni di euro per evitare il fallimento. E intanto i dirigenti si beccano. L'aumento di stipendio, lo scrive Francesco Pacifico, sempre sul Messaggero, a pagina 32. Una pausa, va? Il 26, tutti i ristoranti aperti, ma solo a pranzo, certo, perché a pranzo gli assembramenti non si fanno solo la sera gli assembramenti. Lo potevo capire nei giorni feriali, magari a pranzo c'è meno gente in giro, ma nei giorni festivi, vero? Tutti i problemi che abbiamo avuto dopo il Ferragosto, tutti la menano con queste chiusure a Natale e per l'ultimo dell'anno. È un sacrificio che bisogna fare, non possiamo rischiare di tornare indietro, dobbiamo fare un sacrificio, speriamo sia l'ultimo. È così nei messaggi che ci state mandando al 349-238-6666 sul nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Segnalo all'ascoltatore che in realtà permane il limite a tavola nel ristorante, cioè non è che puoi fare una tavolata da 20 persone, quindi l'assembramento possibile è molto limitato. Vi confesso la grande tristezza nel leggere il pezzo di oggi di Lina Palmerini a pagina 14 del Sole 24 Ore, e non perché sia un brutto pezzo, anzi è ottimo come al solito, un'ottima analisi politica come al solito, ma per i contenuti che porta, perché come ne abbiamo parlato prima, c'è una nuova tensione, una nuova che attraversa un po' tutta la maggioranza. Da una parte la questione dei deputati e senatori del Movimento 5 Stelle che non vogliono votare la riforma del Fondo Salva Stati quando ci sarà il voto il 9 dicembre, dall'altra parte il PD che protesta sul tema delle riforme istituzionali, una tensione che si estende alla realizzazione della task force per il Recovery Fund. E questa tensione da dove trae origine? Ebbene, Lina Palmerini ce la mette così. Questo caos, per la verità, è indotto dalla vera ragione che sta mandando in fibrillazione Conte: la voglia di rimpasto. Oh, Ragazzi, alla fine è sempre quello, eh? Cioè, sembrano tante ragioni di sostanza fondamentali e poi alla fine è sempre quello, la voglia di avere uno strapuntino in più all'interno del governo. E questo è il titolo che incrocia tutte le partite tra parlamentari, ministri, Palazzo Chigi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Quirinale. Già, perché il Colle è tornato al centro della scena, scrive Palmerini. Tutti guardano verso Mattarella, cercano udienza e consigli, aspettano di capire quali potrebbero essere le sue mosse. Si sa che i confronti con il Premier sono di routine e sembra che in questi giorni ci siano stati colloqui anche con i principali esponenti di PD e 5 Stelle per avere un quadro aggiornato di ciò che accade e potrebbe accadere. Al Quirinale, insomma, tengono la situazione sotto controllo e si raccomanda prudenza, come accade nei contatti con i leader politici, e non solo perché questa è la cifra istituzionale di Mattarella, ma perché stavolta per i partiti e i rispettivi leader c'è il rischio di scivolare e farsi male. In sostanza, ci fa sapere Lina Palmerini che il Quirinale sarebbe pronto nel caso il governo Conte andasse sotto nel voto sul MES a eventualmente mandare il paese alle urne, e questo è il segnale che arriva dal Quirinale. Tristezza mette questa vicenda in rimpasto, devo dire la verità, così come mette tristezza questo continuo riciclo di politici in posti di aziende di Stato. Ce ne parla oggi a pagina 14 La Verità con Alessandro Darold, il quale dice che dal MES fino alle nomine delle aziende statali non quotate, il governo giallo-rosso di Giuseppe Conte litiga su tutto. Due giorni fa era spuntato fuori un nome per la nuova presidenza di Acquirente Unico, il garante della fornitura di energia elettrica. Come nuovo presidente e amministratore delegato si parla di Filippo Bubbico, ve lo ricorderete, no? Lo storico esponente della sinistra in Basilicata, prima PC, poi PDS, quindi DS, Bubbico sostenuto da Liberi Uguali. E si tratta di un ripescaggio perché alle elezioni del 2018 non riuscì a farsi eleggere in Parlamento, ma si sa, un ruolo manageriale arriva un po' per tutti quando escono dalla politica. Il politico lucano prenderebbe il posto di Andrea Peruzzi, ex segretario generale della Fondazione Italiani Europei di Massimo D'Alema, destinato a prendere il controllo del GME, che è il gestore del mercato unico elettrico. In questo valzer di poltrone marcate centrosinistra, anche i 5 Stelle stanno cercando di strappare qualcosa. Da settimane Giorgio Sorial, vice capo di gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico, e ve lo ricorderete, era in Parlamento nella scorsa legislatura, anche lui non è stato eletto, ha impredicato di diventare amministratore delegato di Consap, concessionaria pubblica per le assicurazioni. Come vedete, si entra in politica e poi qualcosa si spunta sempre. Il tutto mentre la task force si riduce di dimensioni. Siamo passati dai 300 a circa 100, ce lo fa sapere il Messaggero a pagina 8 con Mario Aiello e Jacopo Orsini, perché ieri c'è stato questo incontro organizzato proprio dal gruppo editoriale del quale fa parte il Messaggero, il gruppo Caltagirone, al quale erano presenti vari personaggi, tra cui il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Raccontano Mario Aiello e Jacopo Orsini che si ipotizza adesso una struttura più snella di quanto immaginato inizialmente, con meno di 100 tecnici ad aiutare i 6 manager che dovranno attuare i progetti del recovery fund. E questo è lo schema su cui si sta orientando il governo per la governance dei finanziamenti del piano di aiuti in arrivo dall'Europa per fronteggiare la crisi provocata dalla pandemia. Le risorse dovrebbero essere concentrate su una selezione di 60 progetti, ma appunto la famosa task force diminuisce. Se Atene piange, Sparta non ride, perché? Perché guai sono in arrivo per la Lega, stando a quanto ci racconta il quotidiano La Repubblica, che dedica 2 pagine all'inchiesta, quella partita, ricorderete, dall'acquisto di un capannone a Cormano per la nuova sede della Lombardia Film Commission, presieduta da Alberto Di Rubba, per la quale la regione Lombardia ha stanziato 800.000 euro. Che cosa sta emergendo? Sta parlando in queste ore Michele Sciglieri, commercialista, indagato in questa vicenda e fa parte di uno dei 3 contabili considerati vicini alla Lega, insieme ad appunto Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. Ebbene, Sciglieri ha raccontato che conosce un meccanismo di quelle che vengono definite retrocessioni al partito, ossia quando si riceve un incarico, quando c'è qualcosa di questo genere, ebbene si retrocede, si passa una certa cifra al partito a mo' di finanziamento, e la definisce una prassi valida per tutti i soggetti che vengono collocati nelle caselle delle municipalizzate o che ottengono contratti dal sistema pubblico lombardo, lo racconta Sandro De Riccardis a pagina 16 e a pagina 17 del quotidiano La Repubblica, con un'analisi di Carlo Bonini che dice: a questo punto Salvini qualche risposta la deve dare. Prima di andare al traffico, un altro paio di elementi. Vi segnalo un bel pezzo, sempre su Repubblica, pagina 8, di Tito Boeri e Roberto Perotti, i quali raccontano quanto le scuole chiuse abbiano aumentato e aumentino le disuguaglianze in un paese che è stato tra quelli che le ha tenute chiuse più a lungo. 105 giorni contro i 67 della Spagna, i 60 del Regno Unito e della Francia, i 53 della Germania e i 48 dell'Olanda, il quale ci racconta questo pezzo che dalle analisi fatte nei paesi nei quali sono state fatte queste analisi emerge appunto che le disuguaglianze aumentano, cioè i ragazzini che vivono in famiglie già in difficoltà, per così dire, culturali, o quelli già in difficoltà a scuola, ebbene, stanno arretrando ancora di più e il divario si sta allargando. In ultimo, la vicenda di Luca Palamara e delle chat. Sappiate che ieri la cosa sta creando una confusione nel CSM pazzesca. Il plenum del CSM si è spaccato e la nomina del procuratore del tribunale per i minorenni dell'Aquila è diventato un altro caso sul quale i membri togati e i laici sono andati in ordine sparso. Sarà David Mancini, che è passato però con soli 10 voti. Perché? Perché anche lui era dentro le chat. 18 aprile 2018, voleva diventare sostituto procuratore generale della Cassazione, scrive a Palamara: confiderei in un appoggio. E Palamara gli risponde: farò il possibile. Poi invano. Traffico. In chiusura di rassegna saluto Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24. Giuseppe, buongiorno, come stai? Bene? Buongiorno a tutti, ciao. Sì, ecco, sto bene, grazie. Spero anche voi. Sì, assolutamente. Allora, qua siamo ovviamente, caro Giuseppe, invasi dai messaggi degli ascoltatori che ci scrivono a proposito dell'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cavillando su ogni singolo giorno. Cioè, che cosa posso fare il 27, il 25, il 26? Curiosamente però, Giuseppe, la politica sembra presa da tutt'altro, ossia da temi che hanno a che fare con il rimpasto e addirittura con un'ipotesi di urne che sta circolando in queste ore. Tu ci credi? Sinceramente no, non credo che sia una prospettiva verosimile quella delle urne. Credo però che siamo di fronte a un momento di tensione vera all'interno della maggioranza e del governo, come forse nell'esperienza giallorossa non c'è mai stata, per cui non credo che alla fine si arriverà a una rottura e quindi all'ipotesi delle urne, però è una crisi, diciamo una crisetta vera. Sì, ne abbiamo viste tante in questi mesi, Giuseppe, come ha detto ieri il ministro Provenzano, forse proprio da voi se non vado errato, sì. Come ha detto il ministro Provenzano, è un po' come non abbiamo ancora trovato l'amalgama giusta tra questi due pezzi della maggioranza. È complicato trovarla, visto che non ci dimentichiamo che stiamo parlando di i due pilastri di questa maggioranza. Si sono presentati alle urne che hanno formato questo Parlamento dandosele di tanta ragione, per cui è complicato poi, per quanto, come dire, la politica parlamentare poi riesca a trovare degli accrocchi quasi sempre, però quando le cose nascono tonde è difficile farle morire quadrate, o viceversa. Senti, che idea ti sei fatto su questo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri? Sai, qua, come ti dicevo, i nostri ascoltatori si stanno dividendo moltissimo, no? Tra chi chiede informazioni e va bene, e dall'altra parte chi dice: il fatto che si chiedano così tante informazioni è la dimostrazione che c'è bisogno in questo paese, c'è bisogno di regole precise, di regole molto, molto stringenti. In realtà altri paesi come la Germania, la Spagna, la Francia hanno deciso di lasciare regole un po' più lasche per Natale. Tu che idea che ti sei fatto? partiamo da un presupposto. Abbiamo visto DPCM annunciati di notte per essere in vigore dall'ora successiva, o addirittura in vigore prima che fossero annunciati. Invece in questo caso abbiamo delle regole certe con molti giorni di anticipo, e questo, diciamo che dal punto di vista organizzativo, quantomeno è un passo avanti in questi ultimi 8 mesi. È estremamente complesso come provvedimento, molto appunto cavilloso, e io credo che in realtà sia per una volta questo eccesso di cavilli, questo eccesso di precisione, sia in realtà dovuto alla comprensione definitiva del fatto che siamo all'ultimo miglio, o quasi all'ultimo miglio, e che davvero non si può disperdere quello che abbiamo faticosamente cercato di fare in questi mesi. Io mi rendo perfettamente conto delle difficoltà che viviamo tutti, perché poi in questo caso politici, non politici, giornalisti, non giornalisti, siamo tutti, quando c'è il Natale, ci sono le famiglie, siamo tutti uguali davvero, o se ancora di più. Però in questo caso, davvero in questo caso, io questo sforzo di farci un Natale diverso lo farei, perché anche il dato di ieri ci dimostra che non stiamo davvero scherzando, che di fronte a 990 morti, che diventeranno forse 1000 oggi, parliamo di piccole rinunce a cui possiamo per una volta, come dire, sottostare. Sì. Il tutto in un'attesa quasi messianica del vaccino. Ieri Arcuri ha detto che arriveranno oltre 200.000 dosi e che entro settembre potremmo essere in grado di avere la capacità di, in realtà non ha detto saremo tutti vaccinati entro settembre, ha detto potremmo essere in grado di vaccinare l'intera popolazione. Giuseppe, a chiudere, voi domani, senza sciare ma a Courmayeur, avete un evento mega galattico, con tantissimi ministri, personaggi pubblici dall'Europa, una sorta di tentativo di ripartire, di riportare il dibattito sul territorio. In cosa consiste? Consiste nel, si chiama Live In, con una piccola aggiunta, un piccolo diciamo appunto una piccola aggiunta rispetto a quello che noi siamo sempre, o come voi d'altronde, live. Quindi noi siamo sempre accesi, ma siamo sempre, o quasi sempre, di partenza dai nostri studi, dai quali poi ci colleghiamo con tutta Italia, tutto il mondo, con i nostri inviati. Per un giorno, e partendo da domani, poi lo faremo almeno 2 volte l'anno, siamo live in qualche altro posto. Quindi usciamo dai nostri studi e facciamo la nostra produzione, dalle notizie, agli approfondimenti, in un altrove. Questo altrove questa volta è il teatro, cinema teatro di Courmayeur. Partiamo da Courmayeur, onestamente questo va detto, pensavamo di partire quando ci abbiamo pensato, in una condizione che fosse quella dell'inizio di qualcosa, ovvero di una stagione comunque invernale. Oggi siamo invece in un posto che rappresenta un po', se volete, tutte le restrizioni che abbiamo visto anche in quest'ultimo DPCM. Quindi a suo modo è simbolico, non si scia, siamo chiusi in un teatro, saremo solo noi presenti, gli altri saranno tutti collegati. Abbiamo cercato di condensare in una giornata tutto il dibattito politico, e non solo politico, culturale, economico, attuale, per dare poi in fondo quello che facciamo sempre, Simone, ovvero l'informazione più ampia possibile. Chiaramente per noi è una giornata speciale, quindi abbiamo voluto che fosse molto ricca e che fosse molto piena. Certo. Allora Giuseppe, in bocca al lupo per domani, una giornata che vedrà per l'Italia, per dare un'idea, vabbè, Renzi, Salvini, Tajani, Zingaretti, Meloni, Crimi, tutti insieme. Non succede neanche in Parlamento. Fantastico, il presidente di Confindustria, i sindacati e anche Isabella Allende, insomma, è una giornata ricchissima. In bocca al lupo per domani, Giuseppe De Bellis. Buona giornata. Ciao Giuseppe. GR24, ci ritroviamo tra poco con